19 minuti, siamo ritornati in diretta qui su Radio Stonata dopo una piccola pausa pubblicitaria, ma i messaggi questa sera arrivano a gogo. C'è Andrea che mi ascolta dal treno, che ci ascolta anzi dal treno, poi c'è Federica che ci ascolta insieme a tutti i suoi cugini, Valentina, Giuseppe Calvano che ha la febbre a 38, quindi vai, un po' tutti malati anche, va bene. Comunque questa è Radio Stonata, siamo ritornati appunto in diretta e siamo anche pronti per collegarci con il continente africano, dove come ogni martedì e giovedì ritroviamo il nostro amico Flavio Alagia di nonsoloturisti.it. Ma oggi non è solo, perché con lui c'è Giulio Radice, fotografo, bresciano, viaggiatore e presidente dell'associazione 7000 miglia lontano. Ciao e buonasera a tutte e due. Ciao Beppe, buonasera a tutti. Mi spiace sentire che da quelle parti c'è gente malata a causa del freddo. Noi siamo qui sotto il sole cocente del Sudafrica, tra paesaggi tropicali, spiagge bellissime, l'ombra di Table Mountain a farci da distorre, quindi avete tutta la nostra comprensione, ma scusate se noi preferiamo rimanere da questa parte. Ma innanzitutto anche presentaci tu a Giulio, perché lui è il presidente appunto di questo bellissima avventura che vede coinvolta non solo turisti.it e te in prima persona. Sì, sono qua con la persona che in primo luogo, mettendoci la sfrontatezza di arruolarmi come autista, mi ha trascinato qua nel sud del mondo con Giuliano Radici. Giuliano è un fotografo, è un artista, è una di quelle persone che mentre cammini c'ha già le mani impegnate in 500 idee e mille altre gli spuntano per la testa. La cosa non so se riempirmi così di orgoglio e di gioia per essere qua con lui, oppure di una certa inquietudine, visto che lo dovrò scavalcare per tutto il continente. Il progetto, come ormai sapete bene, si chiama 7000 miglia lontano. Sono partiti l'anno scorso da Milano, hanno attraversato l'Europa e l'Asia, le Americhe. Siamo finalmente riusciti a recuperare i nostri veicoli che ci sono stati spediti dall'Argentina. Siamo pronti, stiamo aspettando che vengano messi a punto i motori per raggiungere in macchina sei persone, sei scatenati giornalisti, fotografi, videomaker da Città del Capo a Malindi. Ma visto che c'è Giuliano qui con noi, un po' ve la faccio raccontare anche da lui. Giuliano è presidente dell'associazione 7000 miglia lontano, già stato con i ragazzi in Sud America e ci trascinerà tra le sue i suoi mira, i suoi progetti, le sue mille idee attraverso il continente africano. Ciao Giuliano, grazie. Ciao Flavio, ciao Beppe, ciao Radio Stonata. Ciao Giuliano. Cominciamo subito con le cose essenziali. Come nasce il progetto 7000 miglia lontano? Come siete arrivati fin qua? 7000 miglia nasce da molto lontano, ma proprio perché siamo partiti con il primo progetto nel 2009. Nel 2009 dovevamo invitare una piccola associazione indiana, la Jyoti Milaya, e abbiamo deciso di tornare dal sud dell'India fino a Brescia con quattro moto Royal Enfield indiane. Siamo tornati e gli abbiamo dato anche il nome 7000 miglia lontano, perché era la distanza precisa che c'era tra Mysore e Brescia, tra le famiglie bresciane che adottavano a distanza i bambini indiani. E da lì è nato proprio il brand 7000 miglia lontano. Il viaggio è stato importante, è importante ci ha fatto conoscere un po' al pubblico, un po' ai nostri fans e così via. Poi abbiamo fatto un altro nel 2012, abbiamo portato una Jeep in Nepal insieme anche a un altro bici molto importante che è Sido Gnaro Mondinelli, e abbiamo portato questa Jeep e donata a un ospedale che curava le donne nepalesi. E perché no? Fare il giro del mondo era proprio l'ottimale per riuscire a creare e chiudere forse 7000 miglia, oppure andando oltre, cercando di inventarsi qualcosa di speciale. Mm-hmm. Ma 7000 miglia attorno al mondo, vabbè, 7 tappe, 7 team, 7 tragitti, e questa cabra del 7 ci sta portando avanti nel tempo, però sta funzionando, il team l'abbiamo creato pian pianino. Come senti Beppe, oltre a questa passione per il viaggio e per la scoperta, c'è sempre un legame molto stretto con le associazioni umanitarie, con i progetti di sviluppo, di assistenza. Ogni tappa anche di questa puntata, di questa edizione di 7000 miglia lontano è legata a un'associazione umanitaria. La nostra in particolare, quella da Città del Capo al Malindi, è legata al CESVI, l'associazione di cooperazione e sviluppo internazionale, che ha diversi progetti proprio anche qui in Sudafrica e nel resto del continente. Chiunque voglia contribuire a questo, l'avventura, può comprare, diciamo così, le miglia sul sito di 7000 miglia lontano, 7000miglialontano.com. Siamo appunto in Sudafrica, abbiamo già incontrato i ragazzi del CESBI, siamo stati in una township, che sono questi sobborghi periferici che costellano le periferie delle città dove vive la gente delle fasce più povere. Uh-huh. E Giuliano, che è un grande viaggiatore, è stato già in tutto il mondo, non è ancora mai stato in Sudafrica. Giuliano ha visto una township per la prima volta, è una cosa unica, lo puoi rapportare ad altre tue esperienze, cosa ti è sembrato? Beh, ho fatto l'India, specialmente dai sobborghi indiani, e c'è molta similitudine. La differenza forse è nell'immensità, questa gigantesca città piana, che tu la vedi ma non riesci a capire, vedi l'inizio ma mai la fine. Mi ha emozionato molto specialmente perché siamo entrati col Cesri e lì ci ha aiutato un po' a entrare proprio nei sobborghi, quelli più importanti, più chiusi. Giuliano, io ho una domanda per te, ma ti fidi di Flavio per far guidare una delle macchine? Sì. Ma avevo fatto fare il test prima, nel senso che avevo fatto fare un test di guida e dopo mi sono fidato. Ah. Mi piace Flavio, mi piace. Grazie Teppe, la stessa fiducia in me che hanno tutti i miei amici, tutte le persone che mi conoscono quando ho detto loro che avrei guidato un veicolo dal Sudafrica alla Kenya. Flavio, ci fermiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare un breve e poi ritorniamo in compagnia di te e del nostro amico Giuliano, ok? Perfetto, a dopo. Aranciupa qui su Radio Stonata. Molti di voi questa canzone la definirebbero un po' tamarra, ma a me piace tantissimo. Non so, non si dice, però va bene così. Ritorniamo in diretta con l'Africa, con il nostro Flavio Alagia, che avete già capito oggi non è solo, assieme a Giuliano Radici, che è il presidente dell'associazione 7000 miglia lontano. Flavio, parlavamo fuori onda anche un po' di come sono composti i team, cioè spiegateci un po'. Ogni tappa è messa nelle mani più o meno consapevoli e coscienti di sei ragazzi, tra giornalisti e fotografi. Mi spiegava Giuliano adesso che la composizione in realtà è piuttosto precisa, quindi ve la faccio spiegare da lui, insomma, che sicuramente ha le idee più chiare di me. Abbiamo sempre sei personaggi, sei che girano attorno all'arte o alla fotografia o al videomaker, ma perché abbiamo due fotografi per ogni team, un videomaker, un giornalista e due driver. Uh-huh. Questo perché alla fine del progetto realizzeremo un libro abbastanza importante e un cofanetto, diciamo, con tre libri all'interno e un DVD. Un libro sarà dedicato al fotografo artista, uno dei sette team, uno sarà dedicato al backstage e al food, perché è il tema del nostro viaggio per portarlo all'Expo dal 2015 a maggio. Uh-huh. Abbiamo il videomaker che realizzerà il documentario Attorno al Mondo e il giornalista che farà da legame tra la storia e il racconto che lui creerà durante il tragitto. I due driver siamo in mano a loro, perché loro devono portarci a casa. Ecco, prima di fare confusione, Beppe, ripeto, io non sono qua nella veste di giornalista, bensì di driver, perché nonostante per quanto io sia scarso a guidare, Giuliano ha stabilito che io facevo comunque meno danni al volante che non a fare giornalista, cioè, insomma, rendiamoci conto. Stai scherzando, lo so che stai scherzando. Giuliano, mentre io sono lo sbarbatello di turno alle prime armi qua con i ragazzi, con questa impresa, Giuliano invece è stato già in Sud America con il team precedente. Ecco, lì com'è andata, come avete cavata con la squadra? Squadra ha funzionato bene, siamo stati anche fortunati perché il tragitto è stato uno dei migliori, sia a livello di luce sia a livello di spazi. Abbiamo fatto dalla Bolivia, siamo entrati in Cile, abbiamo fatto un bel pezzo in Patagonia, abbiamo portato le macchine a Buenos Aires per trasportarle con il cargo a Cape Town, dove Flavio e Vaciano le hanno ritirate. Le abbiamo ritirate qualche giorno fa. Ah, quindi lo vedi Flavio che potevi farlo alla fine il viaggio con le macchine dal Sud America al Sud Africa, invece di prendere tutti quegli aerei. Infatti, guarda, ho preso quel maledetto aereo, pericolosissimo mezzo di trasporto che, come tutti sanno, dovrebbe essere assolutamente sconsigliato, e pensavo di dover, anzi sono stato felice di darmi una mossa, di arrivare qua con qualche giorno in anticipo, perché tu sai, non è la prima volta che vengo a Città del Capo e ritornarci quando Giuliano mi ha dato l'opportunità di ritornarci è stata per me è una bellissima notizia. Città del Capo è una città veramente di grande varietà, di grande trasformazione continua. C'è l'arte, c'è la cultura, c'è Table Mountain, che è questo enorme massiccio che fa da cornice alla città e da qualunque punto. Il famoso punto Table perché ha la sommità piatta, si fanno le arrampicate, il trekking per arrivare fino in cima a godere del paesaggio. C'è il mare, ci sono i pinguini in Sudafrica, ci sono un po' di pinguini a Città del Capo. E in questi giorni cercheremo un po' di esplorarla, di scoprirla ben bene, finché le nostre due ragazze, diciamo noi, le due macchine che ci hanno dato in consegna per questa avventura, saranno pronte e ci trascineranno in qualche modo fino a Malibu. Ma una mia curiosità, le macchine hanno un nome, non un nome la marca, hanno un nome loro, tipo una cosa simpatica? No, le hanno battezzate. No, ogni team le battezza a suo modo, in base un po' alla tipologia del team, perché noi abbiamo solo personaggi maschili durante il viaggio. C'è stato proprio un team femminile che ha fatto da Vancouver fino a Panama, uh-huh. E lì gli hanno dato un nome diversi. Passa da Mercurio a altri nomi, noi l'abbiamo chiamato le ragazze e così via, no? Ogni volta è una rinascita, insomma, un nuovo team, il veicolo acquisisce un nuovo carattere, un nuovo distinguibilità. Allora anche noi faremo questo battesimo delle macchine, pensa un po' dove faremo, gli daremo il nome. Sì, casciamo anche una bottiglia di champagne sul parabrezza. Però vediamo subito. Immagino un vino delle zone di Giuliano. Ma però non è male neanche il sudafricano. Abbiamo già assaggiato i buon vini, andremo a fare anche una visita in una cantina per documentare proprio il vino sudafricano. Mm-hmm. E poi ti racconteremo. Questa è la prossima tappa, ti racconteremo. Prossima puntata. Questo è il periodo di vendemmia qui in Sudafrica, che tra l'altro è uno dei mercati emergenti nel settore vitivinicolo più importanti al mondo. Insomma, dopo quelli tradizionali europei, il Sudafrica si sta imponendo sia per qualità che per varietà di vini. E c'è un vinaggio chiamato Pinotage, che è tipicamente sudafricano, non c'è da nessun'altra parte al mondo. Il risultato è un vino rosso, corposo, morbido, molto, molto gradevole al palato e molto apprezzato. E noi da bravi, ma soltanto per dovere di cronaca, ne abbiamo assaggiato alcune bottiglie e cercheremo comunque di ampliare la nostra conoscenza e la nostra cultura nei giorni a venire. Per il fotografo e non per il driver, però. Sì, questo è naturale. Non beve. No, è normale. Se la sapevo questa, non so se venivo fin qua in Sudafrica. Flavio, se avete altre cose da aggiungere, se no ci sentiamo giovedì. Ci sentiamo giovedì sera, a meno che non saremo già sparati a mille con la macchina in mezzo alla savana, ma sai com'è l'Africa, comunque qualche sorpresa la riserva sempre, però faremo il possibile per esserci e così lasciamo qualcosa da raccontare anche la prossima volta. Ok. Bene. Ringrazio te, grazie a te, Giuliano Radici, il presidente dell'associazione 7000 miglia lontano. Dimmi, Giuliano. Acquistate le tappe sul sito, che è importante, perché aiutiamo 7 associazioni. Andate a vederlo, è un bel sito, abbiamo belle immagini, belle storie che raccontiamo quasi tutti i giorni. Giusto, partecipate a 7000 miglia lontano, il sito 7000miglialontano.com, partecipate, aiutate il CESBI, aiutate i progetti di assistenza che sta creando, che sta seguendo qua in Sudafrica, e seguite le nostre disavventure, se volete. Le vostre avventure. Grazie ragazzi e buona serata. Ciao Beppe, grazie. Ciao Beppe, buona serata a tutti. Ciao.